Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Nel frattempo a luglio avevo prenotato un volo per l'India, destinazione Kerala. Adesso mi trovo esattamente qui, in India, in un centro ayurvedico, e sto decisamente bene. Ciao, sono Massimiliano, sono di Torino, lavoro nel settore delle telecomunicazioni e da qualche anno ho un problema di tremore, ma con l'aiuto dell'ayurveda mi sta molto venendo incontro e cerco di sto trovando beneficio. Ieri sera ho lasciato il gas aperto, che è una cosa che non si deve fare, è una cosa che faceva mia nonna tanti anni fa e tutti quanti ci preoccupavamo. Nonna, il gas, guardate, abbiamo preso apposta il piano di cottura con la spia che si spegne. E mi sono cucinato una roba e poi sono andato a vedermi la partita in salotto, ero a casa da solo, io e il mio cane, nessuno, neanche lui devo dire, se n'era accorto. Poi dopo un paio d'ore è arrivato un mio amico e mi ha detto: guarda che c'è una strana puzza di gas in casa. E tops, era rimasto aperto, e lì ho aperto le finestre e la questione è finita. Non è per questo che vi sto raccontando questa storia, è una forma di consiglio, nel senso, ormai è andata, però prima quando l'ho raccontato in redazione dicevo: ma no, ma non dovevi dire così, dovevi fare così, oppure dovevi dirle così. A un certo punto, dopo 2 ore, è scesa una vicina di casa bussando. Sai quando sei vestito in casa, 11:30, c'hai la tuta: scusate, voi per caso sentite puzza di gas? E a questa affermazione io ho detto, per tranquillizzare, ho detto: no, figurati, tranquilla, ero io che l'avevo lasciato aperto. Però poi tutto a posto, ho aperto la finestra, quindi probabilmente è salito il gas. E quando ho visto la sua faccia ho capito che probabilmente non era il modo per rassicurarla questa. Perché l'ipotesi era: A, si rassicura perché le dico non c'è una perdita, è proprio semplicemente stata una svista. B, perdite non ce ne sono, è che c'è un vicino di casa che è talmente imbecille che lascia aperto il gas, quindi è molto più allarmante di qualsiasi perdita ti potesse trattare. Insomma, questo è quello che è successo e che ha diviso oggi la redazione. Era giusto per rendervi partecipi ogni tanto di quello che succede anche al di fuori di questo studio, in quella regia o nell'altro studio dove proviamo. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, comunque il gas è stato chiuso e lei e sono tutti sopravvissuti. Oggi siamo come al solito in diretta da Milano e oggi come al solito raccontiamo una storia. L'avete sentita in apertura, la storia di Massimiliano. È una storia che ha a che fare con un problema di salute che viene risolto, direi, poi ce lo racconta meglio lui, o non risolto, o comunque curato attraverso un metodo che è quello ayurvedico. Io l'ho, come spesso mi capita, approfondisco gli argomenti che non conosco bene grazie a questo programma e grazie alle storie che mi arrivano. Quindi mi trovo qui e scopro che la Ayurveda, e se qualcuno lo sa pronunciare meglio di me me lo dica, se è Ayurveda o Ayurveda, è una medicina tradizionale che viene utilizzata in India da migliaia e migliaia di anni, che attualmente è annoverata dall'Unione Europea e dalla maggior parte degli stati membri tra le medicine non convenzionali, la cui erogazione è consentita soltanto da parte di medici qualificati. Questo per introdurre il racconto di Massimiliano di oggi, che parla esattamente di questa cosa qua, parla di un problema di salute e parla quindi di un avvicinamento a questa medicina. 349-238-6666, siamo in diretta, quindi quello è il nostro numero di SMS. Se invece avete per mano un tablet, uno smartphone o un computer, andate su Voi Siete Qui Radio 24 su Facebook, o altrimenti Voi Siete Qui R24 sul profilo Twitter. Se ne sapete qualcosa di più, se vi state, come dire, state cercando di curarvi, o semplicemente seguite una terapia che abbia a che fare con la Ayurveda o con la Ayurveda, ripeto, fino a che qualcuno non me lo scrive con l'accento giusto io lo ripeterò sempre così, raccontatecelo, che tipo di cura state facendo, perché leggo che chiaramente si usa per curare ma anche per prevenire, ovviamente. Quindi qualsiasi cosa state seguendo che ha a che fare con la Ayurveda, Ayurveda. 349-238-6666. Ho fatto anche un test prima insieme a Tiziano su un sito per capire che tipo di qual è il tuo dosha. Test ayurvedico. Qual è il dosha che ti domina? E ho scoperto che il dosha che mi domina è Pitta. Però non so cosa voglio dire. Non so in che modo mi domini Pitta. quindi non ve lo leggo perché ha poco senso. 349-238-6666, noi continuiamo a raccogliere storie, ogni giorno ci arrivano e ogni giorno le leggiamo, anche se in realtà, come vi dicevo, non le leggiamo proprio tutti i giorni, le mettiamo insieme e facciamo un punto della situazione e guardiamo che storie arrivano. Voi continuate a mandarcele, voi siete qui, chiocciolaradio24.it, se non avete voglia di scrivere o se le avete già mandate troppe o ancora non vi viene la voglia o il momento giusto per scriverlo, ascoltate le nostre storie tutti i giorni in diretta alle 16 su Radio 24 o altrimenti in podcast dal sito della radio, da iTunes abbonandovi gratuitamente o dalle varie app che trovate in giro sui vostri smartphone. Oggi attacchiamo a raccontare questa storia, la storia di Massimiliano. Vi dicevo, è una storia delicata come tutte le storie che hanno a che fare con problemi di salute. Lui però ha un tono, un modo di raccontarla e mi pare anche un approccio a questa malattia che è molto garbato, che è molto leggero, per quanto probabilmente attento e anche preoccupato per certi versi. Però io credo che da questa storia la cosa che ha impressionato di più me e Tiziano è stato proprio il modo in cui lui si è messo lì e ha detto: va bene, vi racconto questa roba. È una roba che per me è pesante, non è una roba semplice, però io ve la racconto così e spero che vi arrivi così. La mia storia racconta di me e di come la nostra mente possa portarci a credere di stare male per poi diventarlo veramente. Ci sono stati momenti della mia vita che hanno fatto credere alla mia mente di essere in pericolo, di non potercela fare. E quando si vivono queste sensazioni, sarebbe bello poterne parlare, poter essere ascoltati. Dopo la morte di mio padre nel 2007, che ho visto spegnersi piano piano, sono cambiato in peggio ed è iniziata una mia personale lotta contro il mondo. Ma queste sono lotte impari. Mi hanno portato ad avere sfiducia in me stesso e da quel momento il mio corpo ha iniziato a darmi dei segnali di malessere. Nel 2010, dopo varie visite per capire da che cosa dipendesse un mio tremore alla mano, vado a fare un esame presso la divisione di medicina nucleare all'ospedale San Giovanni Battista di Torino. L'esame è quello che chiamano DAT scan. Ti iniettano un radiofarmaco e poi ti analizzano. Nella mia testa questa distribuzione è asimmetrica e per la medicina occidentale si è catalogati come parkinsoniani. Il nome sembra quello di una tribù di extraterrestri scesi sulla Terra a osservare il mondo da vicino. Ci sono perdite di equilibrio, quindi diciamo che i movimenti sono molto più rallentati, quindi si fatica nelle posture, quindi cambi posturali. E poi, ad esempio, nel mio caso, diciamo che il tremore comporta anche la difficoltà nello scrivere, quindi diciamo che la scrittura diventa un po' più difficoltosa. Dopo aver fatto il giro dei 7 neurologi, 6 su 7 mi hanno convinto a prendere dei farmaci. Fortunatamente in questo percorso della mia vita inizio ad avvicinarmi al mondo delle filosofie orientali. Nel 2010 partecipo alla mia prima lezione di yoga. Stefania, la mia insegnante, mi trasmette sin da subito la sua passione e sento che sul mio corpo ha un effetto di pace. Finalmente la mente per un'ora e mezza si spegne, si quieta e rimane in ascolto. Poi nel marzo del 2012, durante un viaggio a Bratislava, mentre camminavo in un centro storico da favola, mi trovo davanti ad un'insegna particolare con un simbolo indiano e la scritta Ayurvedic Center. Dopo il primo trattamento decido che desidero capirne di più. La parola Ayurveda, mi spiegano i titolari del centro, è composta da due termini. Ayush, che significa vita, e Veda, che significa scienza. Ogni vita umana è comparata al cosmo. Siamo come una piccola immagine del cosmo, dove i cinque elementi, terra, fuoco, aria, etere, danno vita a creature che si nutrono di questi elementi. Sapere poi che questa filosofia ha una storia che risale a 12.000 anni fa mi lascia senza parole. When the Beatles went to India to do some meditation, George was into it before. John had lots of questions. Paul said, well, let's see what happens. He looked his best those days. Ringo brought his camera and said, I won't stay long. When the Beatles went to India with their white dresses on, The Beatles went to India to meet the Maharishi. Jonathan was also there, so was Mia Farrow. They were all afraid of losing it, 'cause of fame and money, 'cause if people consider you as gods, you should do something, honey. Appena lasciata Bratislava con l'invito dei titolari del centro di tornarci, scopro che a Merano, ad aprile, si tiene un meeting di yoga e si parlerà anche di Ayurveda. Non ci penso un secondo, decido di andare. Sono dei giorni memorabili. Da questo incontro ne esco arricchito. In particolar modo, grazie all'ascolto di alcune semplici parole pronunciate in occasione di una conferenza sul rapporto tra paziente e dottore. Da questo momento la mia fiducia è riposta nei dottori che si prendono cura dei pazienti in modo soggettivo e non oggettivo, da chi ci aiuta a capirne la causa senza catalogare le persone in cerchie, ma valutando caso per caso ogni singola storia. E questa voleva essere la mia storia, ma come in tutte le storie che iniziano ad andare bene, arrivano poi anche degli imprevisti. Una sera di fine agosto, dopo una discussione in ufficio, il mio braccio inizia a gonfiarsi. Non ci do tanto peso, poi però tre giorni dopo, domenica pomeriggio, dopo aver visto che il mio braccio continuava a gonfiarsi, decido che sia il momento di andare al pronto soccorso. Mi dicono subito che si tratta di una trombosi alla vena succlavia. È un'occlusione, diciamo, nel sistema venoso, e quindi la succlavia è una vena che si trova vicino al collo. In questo punto qua solitamente la trombosi avviene in una zona, diciamo, bassa del nostro corpo, quindi solitamente avviene alle gambe. Nel mio caso invece è arrivata poi in un punto particolare che non si riesce bene a spiegare. Accetto la notizia senza farmi prendere dalla paura, anzi, mentre mi fanno un eco Doppler, riusciamo a trovare il tempo di parlare con il dottore e le infermiere di yoga della risata e di quanto bene faccia ridere. Insomma, esco dal pronto soccorso e anziché essere triste, sono felice, perché nonostante la mia vena abbia deciso di bloccarsi, io sto bene. Il mio unico desiderio ora è che mi dicano la causa di tutto ciò. Come finora non sono riusciti a dirmi la causa del mio tremore, adesso spero che almeno riescano ad aiutarmi a capire che cosa sia successo. Sono passate 3 settimane e dagli esami tutto non si spiega. Ma la spiegazione forse me la sono andata a cercare. Digitando la parola del farmaco che prendo per il tremore, su un testo della stessa casa produttrice del medicinale si parla, tra gli effetti collaterali, di trombosi. Ma sul testo italiano, il famoso bugiardino, nemmeno l'ombra. Ne parlo con il neurologo che me l'ha prescritto e per lui va bene continuare così, fin tanto che non ci saranno gli esiti degli ultimi esami. Nel frattempo, a luglio, avevo prenotato un volo per l'India, destinazione Kerala. Adesso mi trovo qui, in India, in un centro ayurvedico. Sto decisamente bene. Finalmente qualcuno che si prende cura di me. See, you're really only very small and light. su una maglietta gialla davvero fluorescente, di quelle che vedi probabilmente anche di notte al buio, Massimiliano, nella foto che ci ha mandato e che vi racconto tutti i giorni dal nostro sito di Radio 24, pagina di Voi Siete Qui. È, credo, accucciato o inginocchiato o seduto, non si capisce bene perché è tagliata a metà, agli occhi chiusi, e l'espressione è quella di uno che sta pensando o sta meditando oppure sta inalando dei vapori, perché di fianco c'è un po' di nebbia. Pronto, Massimiliano? Pronti. Ciao, come stai? Matteo, bene, bene, grazie. Dove ti trovi in questa foto? Sono a Pantelleria durante uno dei miei trekking. Al bagno asciutto, con le robe lì. Sono... Asciutto, okay, esatto, perfetto. Quello, sì, sono sì. Stato giusto quest'estate. È una specie di, lo diciamo per chi non lo sapesse, è una sauna naturale in una grotta, più o meno. Esatto, esatto. Questa era un po' prima le pendici, e c'erano questi fumi che venivano così, era un piacere inalarli, quindi. Queste terapie anche di olfatti, diciamo di riattivare i sensi, anche in questo, certo. Sicuramente è una cosa che ti aiuta. Sto guardando, sì, che mi aiuta, esatto. Pantelleria, ricordiamolo, l'isola più bella che ci sia. Se non ci siete stati, andateci, non adesso, ma l'isola, insomma, del vento. Assolutamente. Veniamo a noi, Massimiliano. Mi spieghi esattamente che... Nella tua vita quotidiana che problemi ti dà, pratici, proprio questo problema di parkinsonismo, parkinsoniani, che giustamente dici, sembrate scesi da Marte. No, diciamo che rallenta un po' nei movimenti, quindi diciamo che dalla parte, guardiamo dal lato positivo, quindi rallentando i movimenti si apprezzano ancora più queste piccole cose che alle volte facciamo molto di fretta, quindi diciamo che sono un po' più rallentato nei movimenti, anche la mia voce è un po' più lenta, le parole alle volte hanno difficoltà nell'essere pronunciate. No, io devo dire non si percepisce, cioè probabilmente te ne accorgi tu, ma non, no, adesso in questo momento non direi proprio che non è così, te ne accorgerai sicuramente tu. Tu quindi lavori, hai un lavoro regolare, normale? Sì, un lavoro regolare, diciamo abbastanza intenso, perché appunto... Cosa fai? Sono delle telecomunicazioni, quindi coordino delle persone, diciamo delle attività esterne di imprese. E quindi diciamo che ci si ha a che fare sempre con così un po' di classico lavoro, diciamo da ufficio, quindi stare seduti su una sedia per tanto tempo diventa un po' abbastanza pesante, quindi ho bisogno di movimento, ho bisogno di stare all'aria aperta, in quello trovo sicuramente beneficio. Chiaro, mi spieghi invece meglio, allora innanzitutto si dice Ayurveda o Ayurveda? Ayurveda, perfetto. Tu ci hai mandato questo racconto dall'India, giusto? Cioè, sì, l'hai scritto quantomeno là. Esatto, e caso vuole che ci tornerò adesso a marzo di nuovo, se Dio vuole, quindi diciamo che sto riorganizzando un altro viaggio. Che cosa accade in questo centro? Dov'è innanzitutto? Questo è a Trishur, diciamo l'aeroporto di Cochin, quindi siamo nella parte sud dell'India. Ok. Diciamo che è un centro... dove per due settimane, io non pensavo di riuscire a resistere, due settimane chiuso diciamo in un centro, diciamo che per loro è come se fossero tipo ospedale, sì. Dove le persone vanno a curarsi, e io ho trovato proprio il beneficio, perché ho sentito proprio che il mio corpo aveva bisogno di riposarsi, e c'erano due trattamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio, duravano circa un'ora e mezza, sono dei massaggi di trattamenti dove quattro persone diciamo fanno massaggi sul corpo usando oli medicati abbastanza caldi, perché vengono fatti riscaldare e versati sul proprio corpo e vengono stesi diciamo con la manipolazione del diciamo con l'uso della bravura di queste persone che da anni fanno questa attività. E in quattro dicevi? In quattro? No, in due. Sì, quattro persone sono, le chiamano diciamo massaggio otto mani. Ammazza, credo che chiunque vorrebbe correre là a farsi fare un massaggio caldo a otto mani, e questo due volte al giorno, mattina e sera, cioè mattina e pomeriggio. Diciamo che il mattino c'era questo e il pomeriggio c'era Shirodhara, un altro tipo di invece trattamento dove per un'ora e mezza diciamo dell'olio scendeva sulla testa, quindi diciamo era un massaggio alla testa. Ok. Senti, ma queste cose riesci a farle anche, cioè tu dici ci torni là perché ti fa bene, perché è bello. Si fanno solo lì, perché in Italia ancora non riesci, non si può fare. No. Però segui ad esempio una dieta particolare, oppure sì, anche questo è cambiato, l'alimentazione in questo senso è cambiata, ma questo sono arrivato poi da me diciamo a scegliere di cambiare alimentazione, perché proprio c'era proprio il piacere e il gusto di mangiare cose buone, quindi mi sono avvicinato quindi al discorso quindi cucina vegana. E ti cucini tutto tu? Riesci a fare... diciamo di non sono ancora, diciamo, ovviamente sì, mi appoggio molto di posti, di luoghi dove preparano questi cibi già preparati, oppure diciamo sicuramente a casa riso, quindi cambiare quello che sono le limitazioni normali, diciamo, facendo piatti semplici. Ho capito, di verdura e frutta. Ma riesci, scusami, perdonami, sembra una banalità, ma costa di più seguire questo tipo di dieta? Cioè spendi più soldi o semplicemente una ricerca diversa di cibo? No, è una ricerca diversa, diciamo, si mangia un po' di meno e si mangia, diciamo, decisamente meglio, perché l'intestino, quindi anche questo nell'Ayurveda, diciamo, è importante, diciamo, quello che sono il fuoco intestinale, quindi diciamo la digestione, quindi tutto quello che assumiamo, il cibo deve essere di qualità. Sì, insomma, è chiaro, è una ricerca della qualità generale, di quello che fai, di quello che butti dentro di te e di conseguenza della tua vita. Tra l'altro arrivano messaggi, c'è un medico cardiologo, dice, sono un medico cardiologo e dirigo un centro ayurvedico. E poi ancora, io ho sempre usato i prodotti ayurvedici con grandi risultati. E poi, scusa, rispondo a un messaggio di un'ascoltatrice che è bellissimo, Franca, che dice, ciao Matteo, per favore, mi dici se questo è il numero giusto per mandare i messaggi? Franca è il numero giusto, è arrivato, 349-238-6666. Massimiliano, io ti ringrazio per le chiacchiere e per la storia. Qualsiasi altra cosa tu abbia voglia di raccontare, come dico sempre, noi siamo qui. Voi siete qui, @radio24.it. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata, ciao, grazie. 349-238-6666, Fabrizio da Biella mi dice, Matteo, fatti controllare l'olfatto, che credo sia legato al test ayurvedico che ho fatto, giusto? Che sono... il dosha che mi domina è Pitta. Però torniamo ad un altro argomento di questo programma, di questi ultimi giorni di programma, che è che stiamo raccogliendo, oltre ai normali, ai regolari racconti che continuiamo a raccogliere, anche delle storie che parlino di cibo, che parlino di alimentazione, che siano delle storie ma che abbiano a che fare con il cibo e con l'alimentazione. Ed è arrivato un racconto giusto ieri di Donatella, un racconto di cui vi leggo le prime righe. Dice così: il rito del caffè era una delle prime cose che si imparava arrivando in Turchia. Non c'era invito, anche solo una semplice visita di cortesia, che non finisse con questo antichissimo rito. Fumando e spettegolando un po' di chi non c'era, si sorseggiava il caffè ancora bollente, si copriva la tazza con il piattino e con un gesto fermo si capovolgeva tutto, poi si posava la tazzina sul tavolino e si aspettava pazientemente che qualcuno leggesse i segni sibilline che lasciava al fondo del caffè, scendendo lento e scuro sulla parete interna della tazza. Poi qualcuno leggeva il futuro. Voi siete qui, @radio24.it, se avete, appunto, se vi sono successe delle cose che hanno a che fare con la cucina, con le ricette, con il cibo o con l'alimentazione, noi le prendiamo e ci facciamo una puntata. Io ringrazio nella fattispecie quelli che hanno mandato in onda questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. Voi continuate a raccontare storie, raccontate, ascoltate e scaricate il podcast dal sito di Radio 24 oppure dalle varie app, come vi dicevo prima. Grazie soprattutto a Massimiliano, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Pierluigi, abito a Sorbiatolona. La storia di domani è la mia e parla di sincerità. Questa è la mia storia e io sono qui.